America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Abbiamo avuto, devo dire, una tragedia in Texas, una grande alluvione che ha fatto per ora 11-12 morti, una quarantina di dispersi. Il conto ovviamente è provvisorio, perché nella notte si continuava a fare l'appello, a cercare di capire chi era rimasto travolto da questa inondazione massiccia senza precedenti nello Stato. Sentiamo Greg Abbott, il governatore del Texas. You cannot candy coat it. It's absolutely massive. Now, because of the level of devastation, I have announced today that Hays County, Caldwell County, Bastrop County, as well as some other counties around the state of Texas, have been included in my disaster declaration. È la più grande alluvione che lo stato del Texas abbia mai visto, dice Abbo. Si tratta di uno tsunami d'acqua dalla forza spaventosa, qualcosa di enorme, ed è a causa del livello di devastazione che ha portato questo tsunami che dichiaro oggi lo stato di disastro, di emergenza nelle contee colpite. Anche il presidente Barack Obama si è mosso, stava per firmare nella notte un decreto di assistenza per il Texas e per l'Oklahoma, perché poi anche l'Oklahoma è stato colpito. Pensate, solo in Texas 37 contee nella parte orientale dello stato sono state travolte da questo tsunami. Cos'è successo? Sono stati dei giorni di alluvione, ma una vera e propria alluvione. Ha cominciato a piovere lunedì, ha cominciato a piovere martedì, e la cosa a un certo punto è andata completamente fuori controllo. Dei fiumi in secca per molto molto tempo si sono riempiti, l'acqua è andata fuori dall'argine. Sentiamo. We have an update for you guys about the record-setting rainstorms that have hammered Texas and Oklahoma with no signs of slowing down. Officials in both states are scrambling to measure the scope of the damage and destruction as the information flows. A dozen people were missing in only one county. Texas Governor Greg Abbott is calling the flood damage in the central part of his state absolutely devastating. Ecco, questo è uno dei tanti newscast nazionali. Le televisioni erano collegate in diretta perché si vedevano veri e propri fiumi d'acqua che travolgevano le strade, le macchine, gli alberi. Insomma, è stata veramente una cosa abbastanza scioccante. La situazione è precipitata nelle ultime 48 ore. La tempesta adesso si è calmata, ma continuerà nei prossimi giorni. C'è da augurarsi che il peggio sia dietro di noi, ma questo conferma la vulnerabilità di tutti noi davanti a questi disastri naturali. Abbiamo visto quello che è successo a Genova. Questa è una situazione naturalmente in divenire. Le conseguenze di una calamità naturale di questo genere le potremo poi così esaminare in dettaglio in fase consuntiva. Oggi vorrei dedicarmi invece a un'altra storia che secondo me è una delle storie economiche più importanti di quest'anno, sicuramente più importanti anche forse dell'anno scorso, sicuramente una delle più importanti a livello globale nel settore delle telecomunicazioni. Ebbene, dietro l'operazione di fusione nel settore delle comunicazioni, di cui vi ho dato notizia ieri mattina, l'operazione di fusione tra Charter Cable e Time Warner Cable, un'operazione da 56 miliardi di dollari più un'altra ventina miliardi di dollari di debito, complessivamente un'operazione da 78 miliardi di dollari. Ebbene, vi dicevo, dietro questa operazione c'è un personaggio straordinario, una sorta di cowboy solitario, un visionario del cavo negli Stati Uniti come mezzo principale per la distribuzione di televisione e poi di internet e poi di contenuto anche telefonico, e il personaggio è John Malone, 74 anni, uno dei pionieri dei sistemi via cavo. Ha cominciato addirittura, pensate, negli anni 70, e con questa operazione che è stata condotta formalmente appunto dalla Charter Cable, però la società di John Malone, cioè la Liberty Communication, controlla il 25% di Charter, e soprattutto questo signore è un personaggio straordinario, di grandissima credibilità, in grado, come dire, di mettere insieme anche persone che difficilmente dialogano fra loro. Qual è, come dire, la morale di questa operazione? Che c'è in corso un forte consolidamento nel settore via cavo. Il settore deve consolidarsi per arginare la concorrenza di altri intrusi come Netflix, che usano streaming per distribuire content, oppure come Apple, che vorrebbe entrare, sta cercando di entrare pesantemente in questo stesso settore. Dunque non è più possibile essere piccoli, e questo John Malone lo aveva capito da tempo. Avrebbe voluto fare questa operazione di fusione con Time Warner Cable parecchio tempo fa, ma dopodiché si è inserita Comcast. Comcast è il numero uno del settore via cavo negli Stati Uniti e tra l'altro un operatore che controlla stazioni televisive, che controlla produzione di content, è un grande gigante perché non è solo cable, e le autorità antitrust, dopo che c'era stato un accordo fra Comcast e Time Warner, appena qualche settimana fa lo hanno bocciato, perché insieme questi due giganti avrebbero creato una posizione di monopolio, avrebbero avuto il controllo di oltre il 56% dell'accesso al cavo negli Stati Uniti. E devo dire, qui l'autorità ha funzionato, ha espresso un parere molto congruo, e quello che mi ha colpito è la rapidità con cui John Malone si è mosso, perché in poche settimane è riuscito a mettere insieme un'operazione, ripeto, da 78 miliardi di dollari. È chiaro, conosce il settore, aveva già studiato l'ipotesi di un acquisto di Time Warner Cable molto prima. C'è un altro elemento che mi colpisce molto, cioè che è la società più piccola che acquisisce la più grande. You know, the easiest deals are the ones where you're buying another business, merging it in the business you're already in. Ecco, lo avete sentito, vi dicevo, un personaggio leggendario. Ecco, ciascuno ha fatto un passo indietro, ciascuno ha preferito non andare da solo in questa avventura lungo la strada del consolidamento e ha venduto, e quindi tutti quanti si sono messi indietro. C'è questa nuova società che si chiamerà New Charter Cable, di cui gli azionisti di Time Warner avranno il 44%, John Malone avrà il 24%, attenzione perché gli azionisti di Time Warner ovviamente sono molto distribuiti, sono molto spezzettati, e Advance, la famiglia Newhouse, avrà il 14% circa. Quindi c'è un nuovo capitolo, c'è una nuova avventura. Chiudo con una curiosità che riguarda sempre John Malone: è il più grande proprietario terriero americano, e lo è per questioni filantropiche. Ha deciso di creare con la moglie una fondazione per la protezione di terre americane selvagge e ha garantito che queste terre saranno protette per sempre. Sapete quanto controlla? L'equivalente di 3 volte il Rhode Island. Il Rhode Island è un piccolo stato degli Stati Uniti, ma stiamo parlando di circa 2 milioni di acri di terreno. Anche questa è filantropia. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.